cose cambiano, le cicatrici restano. E mentre scende la sera, ti porto via con me, ti porto via con me, ti porto via con me, ti porto via con me. Chissà dove sei finita, chissà dove sei finita. Hai capito che è tutto inutile? Prova a sorprendermi, prova a sorprendermi, prova a sorprendermi, prova a sorprendermi, prova a sorprendermi. Senza più limiti, prima di perderti. Senza più limiti, prima di perderti. Senza più limiti, prima di perderti. Prova a sorprendermi, solo per me, solo per te, solo per me, solo per te. Dove sei finita? Chissà dove sei finita? Senza più limiti, prima di perderti.